Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Stiamo andando in tribunale a Napoli per la sentenza, processo ad Antonio Iovine, Francesco Bidognetti e loro avvocati per le minacce. Molta ansia. Speriamo bene. Insomma, speriamo bene, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, speriamo bene in questa settimana come andrà. Ma questo che avete sentito è Roberto Saviano, no? Lo scrittore che nei pochi secondi in cui si è registrato, oggi autoregistrato, mentre andava accompagnato dai carabinieri in tribunale per il processo ai due boss, due ex boss che lo avevano minacciato di morte per le sue attività antimafia, anche minacce rivolte alla giornalista Capacchione. Non è andata però come sperava Saviano, poiché la sentenza, che appare clamorosa, ha assolto i due imputati. E questa è stata un po' la giornata delle sentenze, perché c'è anche quella sul terremoto dell'Aquila, ma è anche una giornata, possiamo dire, ad alta intensità politica, perché c'è l'ultimatum di Renzi e Berlusconi sulla riforma delle leggi elettorali, c'è il vertice di maggioranza, a momenti dovrebbe essere iniziato, dovrebbe ancora cominciare, il comitato di presidenza di Forza Italia domani, in realtà le voci che si rincorrono sulle dimissioni di Napolitano a dicembre, che non conferma e non smentisce quindi come bisogna prenderla, e soprattutto la Procura di Roma che ha aperto un'inchiesta a seguito di un esposto del Movimento 5 Stelle relativo al patto del Nazareno, che secondo i 5 Stelle includerebbe anche la decisione sul nome del successore di Napolitano. Secondo voi è possibile che il patto del Nazareno tra Renzi e Berlusconi abbia incluso in questo accordo anche un nome condiviso per il successore a Presidente della Repubblica di Napolitano? C'è la pagina Facebook di Effetto Notte, come sempre, per voi, per le vostre riflessioni, le vostre sollecitazioni e le vostre opinioni, oppure durante la diretta anche il numero per gli sms, che è il 349-238-6666, 349-238-6666. Ritenete che ci sia effettivamente un accordo anche sul Presidente della Repubblica che succederà a Napolitano in questo patto del Nazareno, e chi potrebbe essere? Ma intanto vi racconto in sintesi la giornata. Renzi fa pressione su Forza Italia, stasera il vertice di maggioranza, Grillo sottolinea no ai due forni e il Movimento 5 Stelle denuncia il patto del Nazareno. Il processo per il sisma dell'Aquila, sentenza ribaltata, assolti i tecnici della Commissione Grandi Rischi. Le minacce a Saviano dai casalesi, assolti i boss di Gomorra. Maltempo, allerta meteo in buona parte d'Italia, una tromba d'aria a Genova fa cadere 30 container, a Marina di Carrara evacuati i piani bassi. ISIS, l'autoproclamatosi califfo al Baghdadi ferito nei raid americani, smentito il tweet che lo dava per morto. Femminicidio a Latina, un agente di polizia penitenziaria spara la moglie uccidendola e poi si toglie la vita. E per il calcio, Conte convoca anche Balotelli nel ritiro a Coverciano della Nazionale. E partiamo quindi dalle due sentenze arrivate oggi e che stanno facendo discutere. Una riguarda la Commissione Grandi Rischi in relazione al terremoto dell'Aquila del 2009, l'altra è quella che assolve, come vi dicevo, due boss della Camorra, ma condanna il loro avvocato per le minacce della Camorra Roberto Saviano e alla giornalista Rosaria Capacchione, attuale deputata del PD. Cominciamo allora con la sentenza dell'Aquila. Sentite, è il pubblico come ha accolto la sentenza dell'Aquila. E ora sentiamo. Per il terremoto dell'Aquila ora la scienza viene assolta con formula piena e tra le grida del pubblico. Assolve Barberi. I giudici d'appello fanno cadere le accuse per i tecnici della Commissione Grandi Rischi, considerati colpevoli invece in primo grado per aver rassicurato la popolazione, secondo l'accusa, sui pericoli di un'eventuale forte scossa dopo quel prolungato sciame sismico. E proprio all'Aquila i tecnici si riunirono 5 giorni prima del terremoto del 6 aprile 2009 che uccise 309 persone. Il fatto non sussiste, scandisce il presidente della Corte Fabrizia Franca Bandera, dopo aver letto i nomi di Enzo Boschi, Franco Barberi, Mauro Dolce e di altri 3 esperti della commissione, e in pochi secondi cancella il clamore internazionale e le polemiche per quella condanna a 6 anni passata come la condanna alla scienza. Pena di 24 mesi invece per l'ex vice capo della Protezione Civile Bernardo Bernardinis, assolto dalle accuse principali. Un verdetto questo che per i familiari familiari delle vittime è un nuovo terremoto. Vergogna, vergogna, urlano in aula gli aquilani e la rabbia si mescola al pianto. Ascolta, senza nascondere lo sconcerto, il procuratore generale Romolo Como, secondo cui si è voluto scaricare tutto sulla protezione civile. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E Enzo Boschi, ex presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ex componente anche della Commissione Grandi Rischi, parla a proposito di questa sentenza, intervistato sempre da Raffaella Calandra. È importante che dei ricercatori non siano stati uniti per le loro, peraltro, giuste considerazioni scientifiche, forse mal comprese, ma erano tutte giuste. Questo vuol dire che voi non avevate rassicurato la popolazione sui rischi? No, noi sismologi non abbiamo mai rassicurato. Nella riunione volevano sapere se i terremoti si possono prevedere. Noi abbiamo spiegato che non si possono prevedere, ma non abbiamo detto che non arrivano, specialmente in una zona come quella dell'Aquila, che è la zona maggiore pericolosità sismica d'Europa. All'epoca si disse è stato fatto un processo alla scienza. È stato fatto un processo ai metodi che noi ricercatori utilizziamo. Abbiamo affermato con forza e chiarezza che i terremoti allo stato attuale delle nostre conoscenze non sono prevedibili. Poi il fatto che sia verificato un terremoto la settimana dopo è una cosa puramente, come dire, casuale. Ma secondo lei ci fu almeno un errore di tipo comunicativo? Era escluso che noi scienziati facessimo la comunicazione. E adesso l'altra sentenza di oggi, con due ex boss della Camorra assolti per le minacce allo scrittore Roberto Saviano e alla giornalista Rosaria Capacchione. Tribunale, letti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara Sant'Anastasio Michele responsabile dei reati ascritti, unificati gli stessi al vincolo a continuazione, lo condanna alla pena complessiva di anni 1 di reclusione nonché al pagamento delle spese processuali. Concede il beneficio alla sospensione condizionale della pena a Sant'Anastasio Michele. Il giudice Aldo Esposito pronuncia l'assoluzione per i boss Francesco Bidognetti e Antonio Iovine. Il tribunale di Napoli ha infatti condannato solo l'avvocato Michele Sant'Anastasio per le minacce rivolte per conto dei suoi assistiti allo scrittore Roberto Saviano e alla giornalista Rosaria Capacchione. Un anno di reclusione con pena sospesa e risarcimento danni, questa la sentenza. Secondo lo scrittore Roberto Saviano, i boss si dimostrano ancora una volta dei guappi di cartone. Questo processo è stato un processo complicatissimo che cambia in qualche modo la storia del diritto, secondo me, per sempre, cioè l'utilizzo di uno strumento processuale come la legittima suspicione per intimidire narratori, scrittori, giornalisti. I casalesi, secondo me, si dimostrano per l'ennesima volta dei guappi di cartone perché si sono nascosti dietro un avvocato. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E per la politica vi dicevo davvero tanti argomenti sul tappeto oggi, dal CDM sulla giustizia all'ultimatum di Renzi a Berlusconi sulla riforma elettorale, poi sentiremo anche un esponente di Forza Italia più tardi all'esposto dei 5 Stelle e sentiremo anche un esponente dei 5 Stelle esposto relativo al patto di Nazareno e la conseguente apertura poi dell'inchiesta da parte della Procura di Roma. Questi sono argomenti che poi approfondiremo in modo più ampio dopo. Intanto c'è un nuovo intervento della CEI sulle unioni gay, parla delle nuove figure di famiglia. Il presidente della CEI, il cardinale Angelo Bagnasco, non citando mai esplicitamente le nozze gay, ma evidentemente con riferimento ad esse, ha detto che hanno l'unico scopo di confondere la gente e di essere una specie di cavallo di Troia di classica memoria. E siamo al maltempo, nuova allerta meteo del Dipartimento della Protezione Civile, l'avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quelli già diffusi prevede in particolare il persistere di precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio temporale sulle regioni del nord della Toscana, dalle prime ore domani sono previste anche precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale sulla Sardegna, poi alla Calabria, Basilicata, specie sui settori ionici, poi Sicilia e Puglia e Genova già colpita dall'alluvione, oggi ha visto, è stata anche travolta da una tromba d'aria che in realtà ha scoperto dei capannoni, ma non credo per fortuna che abbia fatto grossissimi danni. Andrea Ferro da Genova, ciao Andrea. Sì, ciao Roberta, buonasera. Ti parlo dal ponte Castelfidardo. Sotto di me scorre il Bisagno, siamo ben lontani dai limiti di guardia, ma piove, piove forte su Genova. Le ultime notizie preoccupanti arrivano dal Levante, in particolare dalla zona di Chiavari e dalla Val Fontanabuona. Il Rupinaro, un torrente che va a sfociare a Chiavari, è prossimo all'esondazione e altri corsi d'acqua avrebbero abbondantemente superato i limiti di guardia. Quindi la situazione in questo momento più critica, ripeto, è nel Levante. rilevante della provincia di Genova, nella zona del Tiguglio. Per quanto riguarda la tromba d'aria di cui parlavi, è avvenuta intorno alle 17.30, addirittura ha sollevato una trentina di container del porto di Voltri, un miracolo, perché questi container sono stati proiettati su una passeggiata, la passeggiata della fascia di rispetto di Fra. In quel momento per fortuna non stava transitando nessuno. Allagamenti anche in Val di Vare, siamo qui in provincia della Spezia, ricordo stato di allerta 2 fino alla mezzanotte di domani, e domani a Genova, La Spezia e in parte della provincia di Savona le scuole resteranno ancora chiuse. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Andrea Ferro, e adesso spostiamoci sulle notizie dall'estero. Ci sono voci oggi, ci sono rincorse, varie voci sulla sorte del capo dell'ISIS al-Baghdadi, ma ancora non vi sono certezze. Il califfo dello Stato Islamico al-Baghdadi non è morto. Il ministero degli esteri iracheno lo smentisce categoricamente. L'annuncio nasce da un tweet intorno alle 14 di un presunto ministro degli esteri iracheno, Ibrahim al-Jafari, che appunto su Twitter ne annunciava la morte. L'account però appariva sospetto in quanto era stato aperto appena 2 ore prima. Un fake, insomma. Al-Baghdadi in realtà è stato ferito e questo è confermato dal ministro degli interni iracheno. Sarebbe stato colpito durante i raid condotti da aerei dell'esercito iracheno diretti contro una scuola nella località di Sada, dove al-Baghdadi si incontrava con altri dirigenti dell'ISIS, con un altro gruppo terrorista che aveva deciso di stringere alleanza con lo Stato Islamico. I particolari sono arrivati appunto dal ministero dell'interno iracheno, mentre il Pentagono non conferma e non smentisce. La vera notizia è che un finto Ibrahim al-Jafari ha tenuto sotto scacco una parte dell'informazione italiana per un intero pomeriggio. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi in Nigeria, dove 48 studenti sono stati uccisi in un liceo nello stato di Yobe, nel nord-est del paese africano, dove un uomo si è fatto esplodere. 79 persone sono rimaste ferite. L'attentato non è stato ancora rivendicato, ma è probabile che sia da attribuire al gruppo terroristico islamico Boko Haram. E da qui in Medio Oriente, 3 israeliani sono stati aggrediti con un coltello vicino alla colonia di Alon Shvut in Cisgiordania. Fra questi una ragazza di 25 anni che poi è morta, mentre gli altri sono rimasti feriti. I 3 ragazzi stavano facendo l'autostop. L'aggressore, un palestinese, è stato ferito gravemente da una guardia. Il triplice attentato poche ore dopo l'accoltellamento a Tel Aviv di un soldato israeliano da parte sempre di un palestinese entrato clandestinamente in Israele. Secondo le autorità di Tel Aviv si tratta di terrorismo. E passiamo alla Cina, Pechino, dove c'è il vertice dei paesi che si affacciano sul Pacifico. Fuochi d'artificio, un banchetto, strette di mano, la foto di famiglia, è cominciato così più sulla forma che sulla sostanza il vertice APEC a Pechino, che include 21 paesi che si affacciano sul Pacifico, ma come spesso succede in questo tipo di vertici, le notizie più interessanti vengono dagli incontri bilaterali, in particolare dal primo incontro tra il primo ministro giapponese Abe e il presidente cinese Xi Jinping. È un incontro storico, sappiamo quanta tensione vi sia fra Giappone e Cina, soprattutto per il controllo di un gruppo di isole a largo delle coste cinesi. Un accordo fra Russia e Cina per la vendita di una nuova fornitura di gas naturale, si parla di 400 miliardi di dollari, un'iniezione di importanti liquidità. Infine, gli Stati Uniti che hanno cercato di premere per l'accordo della Trans-Pacific Partnership e l'annuncio cinese di progetti di investimento per 1.250 miliardi di dollari all'estero. Mario Pratero, Radio 24, Il Sole 24 Ore a Pechino, al seguito del presidente Obama. E tocca parlare ancora di un femminicidio. Un agente di polizia, tornando sulle notizie italiane, un agente di polizia penitenziaria ha sparato alla moglie uccidendola, poi si è tolto la vita sparandosi con la stessa arma. I corpi dell'uomo e della donna sono stati rinvenuti in un appartamento di via Machiavelli a Cisterna, in provincia di Latina. Per chiudere il calcio, il Marocco ha rinunciato all'organizzazione della Coppa d'Africa, se ne ha parlato già giorni fa, prevista fra gennaio e febbraio 2015 a causa del diffondersi del virus dell'Ebola. Entro domani la Confederazione Africana di Calcio deciderà se assegnare a un altro paese il torneo o se cancellarlo del tutto. Per il calcio giocato invece Mario Balotelli è stato convocato da Conte nel ritiro azzurro di Coverciano, dove la nazionale si è radunata per la sfida di domenica a Milano contro la Croazia, ma di questo parleremo dopo. Intanto, mentre sto per dare spazio agli aggiornamenti per chi viaggia, leggo per esempio il messaggio di Clotilde a 349-238-6666 a proposito dell'inchiesta della Procura di Roma, della denuncia da da parte del Movimento 5 Stelle del patto del Nazareno, dice: ma certo che sì, un presidente che dia la grazia a Berlusconi, sia morbido col fiorentino e tutto finisce in gloria. Ma veramente voi giornalisti avete ancora dubbi? Siete ancora dubbiosi, cioè, sul fatto che vi possa essere anche un accordo sul futuro presidente della Repubblica all'interno del patto del Nazareno? Potete continuare a scrivere sia al 349-238-6666 sia i vostri messaggi, le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi con voi, stavo guardando anche i vostri messaggi. Per esempio, Luigi dice: basta chiedere l'intervento della magistratura nelle trattative politiche. Come nuovo presidente andrebbe bene chiunque, basta che non sia Draghi, che serve alla BCE, alla Banca Centrale Europea. Poi leggerò altri vostri messaggi su questo sospetto che vi sia, almeno secondo il Movimento 5 Stelle, e poi vediamo la Procura di Roma che ha aperto questa inchiesta, a che esito arriverà il sospetto che ci sia dentro l'accordo del patto del Nazareno anche un, appunto, l'accordo su un nome del successore di Napolitano. Ma di questo parleremo soprattutto dopo. Adesso vi riassumo di nuovo le notizie e poi approfondiremo anche altre questioni sempre molto legate a questo tema. Grandi rischi, tutti assolti, il pubblico grida vergogna, sentenza d'appello cancella le condanne a 6 anni in primo grado. E poi Renzi in pressione sul Forza Italia, stasera il vertice di maggioranza, Grillo intanto dice no ai due forni, di cui si è parlato in questi giorni, il Movimento 5 Stelle denuncia il patto del Nazareno. Medio Oriente, aggressioni seriali in Israele, 2 morti e 2 feriti, una ragazza accoltellata in Cisgiordania e un militare a Tel Aviv. Moody's, agenzia internazionale, non vede la ripresa italiana, crescita zero nel 2015, torna in calo la produzione, intanto c'è il via libera alla riforma del catasto. Minaccia a Saviano Capacchione, il processo è stato condannato l'avvocato ma non i due boss che non hanno commesso il fatto, secondo i giudici. Lo scrittore dice: sono guappi i boss, sono guappi di cartone. Matrimoni gay, l'alta dei vescovi è un cavallo di Troia, dice Bagnasco che apre l'assemblea e chiede di rifondare la politica. E poi giallo sulla morte del califfo dell'ISIS, il tweet era falso, al-Baghdadi ferito in un raid aereo degli americani. E poi Conte che accoglie Balotelli in azzurro. Quindi dicevamo, fra i tanti temi politici di oggi, questo ultimatum di Renzi a Berlusconi sulla legge elettorale, insomma gli dice: o ti decidi entro queste ore, se no me la faccio da me con qualcun altro, visto che ci potrebbe essere anche l'appoggio del Movimento 5 Stelle, di altre forze, di questo che si parlava dei famosi due forni. E poi il vertice di maggioranza che dovrebbe essere iniziato da poco, se è iniziato, ma chiedo verifica a Betta Fiorito da Roma. Ciao Betta. Ciao, io sono qui davanti a Palazzo Chigi. Roberto, sì, il vertice è iniziato, adesso è entrata Nunzia Penelope e Gaetano Quagliariello per il nuovo centrodestra, chiedono una soglia di sbarramento al massimo al 4%, quindi una soglia di sbarramento più bassa al 3%, e le preferenze, quindi quanto non vuole né Matteo Renzi né Silvio Berlusconi. Soprattutto Matteo Renzi vorrebbe la soglia di sbarramento al 5% e Silvio Berlusconi non vorrebbe proprio le preferenze. Ora, Silvio Berlusconi ha deciso che non stava all'ultimatum di Matteo Renzi e che quindi prima sentirà i suoi parlamentari domani qui a Palazzo Grazioli a Roma per capire se accettare quelle che erano poi le proposte di modifica del Premier, che era appunto anche un premio di maggioranza per chi, la coalizione che prende il 40% dei voti e non più il 38% come era nella edizione precedente. Mi pareva strano che Berlusconi potesse stare all'ultimatum, no? Sembra un po' non c'è stato, umiliante. Perché sì, allora lì il problema si apre, perché Matteo Renzi ce la potrebbe anche fare con gli ex grillini al Senato, perché ricordiamo sempre al Senato che la situazione è un po' più ballerina, no? I voti non ci sono, con gli ex grillini, gli ex di Sel, con il nuovo centrodestra lui potrebbe portare a casa l'Italicum senza Forza Italia e senza Grillo. Il problema però è che è una cosa politicamente un po' scorretta, nel senso che generalmente, anche se una legge elettorale quale ha bisogno di una maggioranza semplice, cioè una legge ordinaria, è un po' brutta farla solo con una parte, no? Come è successo con il Porcellum, che se la sono fatta loro, quelli del centrodestra, e poi hanno imposto a tutto il paese. Quindi insomma queste riforme fatte da una parte sola portano sempre poi a delle riforme fatte male e comunque contestate e contestabili. L'altra parte è che comunque, mancando Berlusconi, Renzi dovrebbe subire o i diktat del Movimento 5 Stelle, che vuole addirittura il democratellum, cioè un sistema proporzionale quasi puro, con grande rappresentatività ma poca governabilità, quindi l'opposto a quello che vuole Renzi, e l'altra cosa anche che, a parte questa cosa, se dovesse invece farla con i piccoli partiti, dovrebbe subire i diktat dei piccoli partiti che vogliono delle soglie di sbarramento molto basse o non le vogliono affatto, e quindi si ritornerebbe una sorta di prima repubblica dove un partito che ha magari l'1% può dettare la linea di tutto il governo. Spero di essere stata chiara. Sei stata chiarissima, Betta, ti chiedo un'ultimissima cosa. Mi sembra che comunque vogliano decidere, perché domani Berlusconi riunisce il comitato di presidenza di Forza Italia e per mercoledì è stato indetto la direzione del PD, quindi qui si stringono un po' i tempi, no? Sì, anche perché oggi D'Alema ha detto attenzione pochissimo tempo fa, pochi minuti fa, ha detto 8:30 attenzione, la sinistra non è morta, no? Perché questo, c'è il fatto che la parte centrista del PD in questo momento governa il partito, no? Però D'Alema, che è un uomo di sinistra, ha cominciato a avvertire Renzi dicendo attenzione che la sinistra non è morta, e quindi questo qui, in vista della direzione PD, dove Renzi è la maggioranza, però c'è anche insomma una minoranza da rispettare, è importante. L'altra cosa, ricordiamo che tutto si gioca in questa mega partita del Quirinale, dove tutte le caselle ancora sono da decidere. Questo fatto che Napolitano si potrebbe dimettere il 31 dicembre, quindi non aspettare maggio, tarderebbe di poco, però ricordiamo di poco, le elezioni, se Matteo Renzi volesse andare ad elezioni. E per quale motivo? Perché il momento che il presidente si dimette, poi bisogna eleggere un nuovo presidente, il Parlamento si riunisce in seduta comune con uno scrutinio segreto. Ricordiamo quello che è successo alla consulta al CSM, dove ci sono state votazioni su votazioni a vuoto, e anche quello che è successo poi per la rielezione di Napolitano. E quindi i franchi tiratori, insomma, ci sarebbe un clima piuttosto caldo per un po' di tempo, dopodiché il nuovo presidente si insedia e il primo atto è sciogliere le camere, insomma non è proprio il massimo. Ecco, per questo si parla che se Napolitano si dovesse dimettere ci sarebbe comunque uno slittamento di elezioni anticipate, se Renzi tante volte le volesse. Tante volte, grazie Betta Fiorito. Ciao Betta. E visto che si parlava della partita del Quirinale, allora coinvolgo subito l'onorevole Andrea Colletti, deputato del Movimento 5 Stelle. Buonasera Colletti. Buonasera a lei. Lei è proprio il parlamentare che ha depositato in procura a Roma un esposto denuncia per accertare l'esistenza e il contenuto del patto del Nazareno, verificare se sia stato preordinato a pilotare legittimamente le riforme e decidere chi nominare come futuro inquilino del Colle. Così? Conferma Colletti? Tra le tante cose sì. Tra le tante cose, le altre cose quali sono? Beh, semplicemente nessuno in questo momento, tranne quattro persone, conoscono il contenuto del patto del Nazareno. Quindi trovo assurdo che sia politici sia giornalisti dicano no, ma quello non c'è all'interno del patto del Nazareno. A questo punto noi sappiamo solo che, perché ce l'ha detto Toti, factotum di Berlusconi, che esiste un documento scritto e sottoscritto da Renzi e Berlusconi, ma solo in 4-5 ne conoscono il contenuto. Mi sembra che politicamente, dal cittadino anche qualunque, è necessario conoscere il contenuto di quel maledetto documento che sta cambiando a quanto pare la politica italiana, sta cambiando le riforme costituzionali verso un Parlamento autocratico quasi, è un governo che esautora l'iniziativa legislativa. Sta cambiando anche l'iniziativa legislativa stessa, la legge elettorale, una possibile legge anticorruzione. Quindi essenzialmente il mio intendimento è quello, la magistratura dovrebbe verificare cosa davvero c'è scritto, può anche archiviare, non è un problema, ma almeno rendendosi conto di cosa c'è scritto e eventualmente sequestrando quel documento, noi potremmo conoscerne il contenuto. Il punto centrale è la conoscenza e la trasparenza che il potere deve dare alla cittadinanza. Leggo un messaggio con Letti che le viene incontro, anche se si firma Alessandro, dice agisce bene il Movimento 5 Stelle e da un non loro elettore mi costa molto dirlo. Dice: Renzi pubblica la lettera della Commissione Europea reclamando il diritto che tutto venga reso pubblico, l'unica cosa che non pubblica è il patto del Nazareno. Quindi credo che condividerà questo messaggio il con Letti. È legittimo su cosa ci può essere scritto dentro il patto del Nazareno, perché nessuno può affermare o può smentire cosa ci sia scritto in questo momento storico. Secondo lei è scritto? Neanche i deputati del PD e di Forza Italia. Colletti, secondo lei c'è qualcosa di scritto quindi? Io non lo so, lo ha detto Toti, che è europarlamentare di Forza Italia, che ha detto che era presente alla redazione e alla sottoscrizione di quel documento. Lo disse qualche mese fa lui. Quindi... Beh, certo, è anche probabile. Ora, io di Forza Italia non è che mi fido molto, però neanche di Renzi a questo punto e dei PDini. No, diciamo che se c'è stato un accordo è probabile che in qualsiasi direzione sia andato, che qualcosa hanno scritto in bianco, nero su bianco, altrimenti uno potrebbe poi venire meno alle promesse, no? Di solito anche tra persone. Immagino, ma la cosa peggiore in realtà è che nessuno può dire nulla su questo perché nessuno ne ha conoscenza. Colletti, secondo lei quale potrebbe essere il nome del successore di Napolitano se fosse previsto in questo accordo? Guardi, non glielo so proprio dire, da quello che leggo in giro sembra che Finocchiaro sia un nome che vada bene sia al PD o a Forza Italia, a quanto pare, e questo mi preoccupa alquanto, visto come ha portato avanti le riforme costituzionali al Senato da Presidente della Commissione Affari Costituzionali. Però sinceramente a me poco mi interessa, perché noi attueremo le stesse modalità che abbiamo attuato sia per le culinarie ormai molto tempo fa, un anno e mezzo fa, sia per l'elezione dei giudici della Corte Costituzionale. Colletti, adesso voi come procederete? Cosa vi aspettate che faccia la Procura di Roma? Cioè, siete ottimisti sul fatto che andrà avanti l'indagine, l'inchiesta, o verrà archiviato così velocemente? Guardi, tanto aperta contro ignoti al momento. Certo, no? Io ho presentato questo per un semplice fatto, perché anche se la Procura dovesse archiviare, comunque per archiviare dovrà rendersi conto se esiste quel documento, se è scritto e cosa c'è scritto. Quindi comunque, dal mio punto di vista, anche se dovesse archiviare, noi verremmo a conoscenza del contenuto, che è la cosa che mi interessa più di tutte. Ne è convinto di questo, che verrete a conoscenza del contenuto in ogni caso? Ne sono convinto ragionando da un punto di vista legale, poi ovviamente dipende da influenze esterne, mi sembra difficile, no? Il pubblico ministero. Dal punto di vista legale, per archiviare il PM deve valutare quello che c'è scritto dentro quel documento scritto, e per valutarlo può cosa fare? Leggerlo, acquisirlo o sequestrarlo. E quindi comunque ne verremo a conoscenza pubblicamente. Anche se Colletti, se non è stato depositato ufficialmente da qualche parte, uno può dare qualsiasi foglio, no? Diciamo, se proprio vogliamo fare gli avvocati del diavolo. Sarebbe un reato, falsa informazione ai PM. Va bene, intanto comunque voi avete depositato questo esposto, Colletti, poi ci aggiorneremo più in là per capire che esito avrà questa inchiesta. Sì. Intanto grazie e buon lavoro, grazie e buona continuazione. Grazie a lei, arrivederci. Ci prendiamo una pausa adesso, volevo leggere ancora qualche vostro messaggio. Salvatore dice: sì, c'è un nome, il Berlusca. Vittorio parla di follia totale. Enzo ed Elena scrivono: metteranno a capo della partitocrazia un altro garante della casta. Nico scrive: Emma, cioè immagino Emma Bonina, il resto è Emma Bonino, il resto è spazzatura. 349-238-6666 il numero per i messaggi, se no sempre la pagina Facebook di Effetto Note. Tra pochi istanti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi, stavo leggendo ancora i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e anche gli sms al 349-238-6666 sull'esposto del Movimento 5 Stelle. Abbiamo appena parlato con Colletti del Movimento 5 Stelle, che ha detto che bisogna verificare cosa c'è scritto davvero in questo patto del Nazareno tra Renzi e Berlusconi e se c'è per esempio anche il nome del futuro successore di Napolitano. Antonio da Termoli scrive: il nome del Presidente della Repubblica non è contenuto nel patto, forse è il patto, possibile quindi escludere il nome dello stesso Berlusconi, dice Antonio, mentre invece un altro ascoltatore scrive: dovevano smontare il patto di stabilità detto Fiscal Compact e invece fanno i buffoni sul patto del Nazareno. Il Movimento 5 Stelle è una bufola incostituzionale. Tra pochissimo ritorneremo sull'argomento politica, vi ricordo quali sono state le notizie principali di oggi. E partiamo dalla politica, appunto. Renzi fa pressione su Forza Italia, stasera in corso il vertice di maggioranza, Grillo sottolinea no ai due forni, il Movimento 5 Stelle denuncia il patto del Nazareno. Il processo per sisma dell'Aquila, sentenza ribaltata, assolti i tecnici della Commissione Grandi Rischi. Le minacce a Saviano dai casalesi, assolti i boss di Gomorra. Maltempo allerta meteo in buona parte d'Italia, una tromba d'aria a Genova fa cadere 30 container e a Marina di Carrara evacuati i piani bassi. ISIS, l'autoproclamatosi califfo Baghdadi ferito nei raid americani, è stato smentito il tweet che lo dava per morto. Femminicidio, un nuovo femminicidio succede a Latina, un agente di polizia penitenziaria spara alla moglie uccidendola e poi si toglie la vita. E per il calcio, Conte convoca anche Balotelli nel ritiro a Coverciano della Nazionale. Continuiamo sui tanti temi di politica di oggi, delle ultime ore, col professor Roberto Dalimonte, politologo, professore di sistema politico italiano alla LUIS, editorialista del Sole 24 Ore e direttore del CISE. Buonasera professore. Buonasera. Allora, ha sentito che il patto del Nazareno finisce in tribunale? Sì, ma sono sciocchezze. Sciocchezze? Perché? Perché il patto del Nazareno è un accordo, come se ne fanno tanti, tra forze politiche. Non c'è niente di misterioso, di strano in accordi che si fanno tra forze politiche che vogliono raggiungere determinati obiettivi. Quindi lei dice la politica funziona così, non c'è nulla di nessuna trama o congettura o qualcosa di nascosto, no, misterioso, no, insidioso? No, certamente non nel patto del Nazareno, che è un patto, ho già detto, è un accordo su alcuni punti che non riguardano il Presidente della Repubblica, almeno io non ci credo, che riguardano invece tre questioni, come state detti dai protagonisti, e le tre questioni erano il sistema elettorale, il superamento del bicameralismo perfetto. Quindi la riforma del Senato. Sì. La riforma del Senato e il titolo quinto. Questi sono i punti dell'accordo tra due forze politiche, e poi un accordo che naturalmente per essere valido dovrà essere ratificato in Parlamento, approvato in Parlamento. Questo punto. Ma è stato, non è stato però ratificato in Parlamento questo patto? Nel senso, è rimasto tra loro? Non il patto per sé, ma i provvedimenti. Ah, i provvedimenti, tra i provvedimenti che diceva. I provvedimenti contenuti nel patto sono diventati dei disegni di legge, alcuni dei quali sono già stati approvati da uno dei rami del Parlamento. Questo è tutto alla luce del sole. Quindi lei dice non c'è assolutamente il nome del successore di Napolitano, che dovrebbe dimettersi a dicembre. Sembrava un po' uno scoop delle ultime ore, poi dal Quirinale hanno detto ma no, quale scoop, era una cosa che era prevista da tempo, semplicemente non sono state previste tutte queste pettegolezze, indiscrezioni che hanno agitato la politica. Quindi è più o meno sicuro che Napolitano dovrebbe dimettersi per dicembre, professor Dalimonte? Lo so, perché non ho dei rapporti con il Presidente. Lui non smentisce e non conferma comunque Napolitano. Sì, che... L'impressione che ho è che il Presidente sia stanco. È una persona anziana, insomma, ha dato molto a questo Paese. Poi credo che sia anche deluso dal fatto che aveva accettato questo secondo mandato, che per lui è un peso, ovviamente, perché si aspettava che alcune riforme sarebbero state fatte. E invece tutto questo non si è verificato, è passato più di un anno e siamo ancora in mezzo al guado, e quindi questo credo accresce la stanchezza del Presidente. Professore, ha detto tre giorni fa, ha detto chiaramente, un po' come battuta, diciamo a latere di un'assemblea, nell'assemblea dell'ANCI, Renzi aveva detto il patto con Nazareno scricchiola, e come se scricchiola. Oggi forse, non so se è stata una conferma o semplicemente Berlusconi non ha voluto far vedere che stava a un ultimatum di Renzi e quindi non ha dato la sua risposta definitiva oggi sulla riforma elettorale, o potrebbe essere una conferma che c'è qualcosa che scricchiola, che Renzi debba essere costretto a rivolgersi in altre direzioni per avere consenso e maggioranza poi per le riforme? Guardi, Renzi ha alzato la posta, perché quando ha strappato Berlusconi il sì a settembre sul premio alla lista, ha alzato la posta, perché in realtà il premio analista che Berlusconi pare gli abbia promesso, su quale almeno era d'accordo a settembre quando si sono incontrati, è un mutamento significativo del patto del Nazareno, che non lo prevedeva, e anche un cambiamento del testo dell'Italico approvato dalla Camera, ed è un cambiamento significativo che mette in difficoltà Berlusconi nei confronti del suo partito. Probabilmente Berlusconi non si aspettava questa resistenza, però questo premio alla lista fa molto comodo a Renzi, fa molto meno comodo a Forza Berlusconi, Italia. No, Berlusconi magari, se gli ha detto di sì, c'ha le sue ragioni, che probabilmente sono le ragioni che abbastanza note, cioè Berlusconi vuole stare al gioco, vuole continuare a mantenere dei buoni rapporti con il Presidente del Consiglio, per rimanere al gioco. I giochi sono importanti, sia sul piano politico, quello che lei ha citato, l'elezione del Presidente della Repubblica, ma probabilmente anche su altri piani. Quindi Berlusconi ha le sue ragioni per voler continuare a collaborare col Presidente del Consiglio. Dentro Forza Italia c'è una fronda, perché molti si rendono conto che questo cambiamento del sistema elettorale favorisce Renzi e molto meno Forza Italia. Professore, per chiudere le faccio solo sentire una battuta di Massimo D'Alema, stasera a 8:30. Sentiamo cosa ha detto proprio di Renzi e Berlusconi. Berlusconi, il problema è che Berlusconi in questo momento è diventato il principale ostacolo all'esistenza di questa destra, diciamo. Quindi il problema non è informarlo, il problema, che non è mio e di quelli che stanno da quella parte, è come uscirne, che lui in qualche modo si è talmente innamorato di Renzi, diciamo, che lo ha scelto come suo erede, però a questo punto, se il maggiore esponente dell'opposizione si innamora del capo del governo, è finita l'alternanza, diciamo. Che ne pensa, come ultima battuta, professor Dalimonte? Che è solo parzialmente vero, è molto parzialmente vero, perché la questione non è solo l'innamoramento. Non c'è dubbio che c'è una simpatia per Renzi, ma in realtà ci sono anche interessi economici e politici molto forti che legano Berlusconi a Renzi, e quindi non è solo una questione di innamoramento. Per esempio, interessi economici? No, lei pensi a tutta la partita che si sta giocando adesso, dovuta ai mutamenti tecnologici e di business nel settore delle telecomunicazioni. La partita Telecom, la questione premium, il Murdoch che vuole entrare in maniera più massiccia nel TV generalista, cioè quel mondo lì è talmente in trasformazione che Berlusconi non può non essere governativo, non so se mi sono spiegato. Quindi, poi se a queste questioni molto importanti per Berlusconi, partite che si stanno giocando adesso in quel settore lì, si aggiunge anche la partita politica, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, lei capisce che non è solo una questione... C'è troppa posta in gioco, capito, per esserne fuori. La posta in gioco è importantissima, quindi non è solo questione di innamoramento, e faccio fatica a credere che D'Alema non se ne sia accorto, che parli solo di innamoramento. A parte gli innamoramenti, professor Dalimonte, la ringrazio, la saluto, e poi di Forza Italia, di quello che pensa, parleremo tra pochissimo anche con Francesco Paolo Sisto, proprio di Forza Italia. Onorevole, intanto la saluto, ci sentiamo subito dopo, ancora pazienza qualche istante? Si sta rivolgendo a me? No, no. Professor Dalimonte. Sì, saluto il professor Dalimonte, e tra poco ci saluteremo anche, lo convocheremo con Francesco Paolo Sisto, tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Fra le notizie c'è del CDM, il Consiglio dei Ministri, che fra le varie cose ha liberalizzato il mercato dei fiammiferi. Io pensavo che non esistessero neanche più fiammiferi, una notizia particolare questa. E poi c'è un ascoltatore che scrive al 349-238-6666, ma leggi i comunicati stampa, hai letto della soluzione degli scienziati sul terremoto dell'Aquila, ignoranza o malafede che non ne parli? Io informo l'ascoltatore che Effetto Notte inizia tutte le sere alle 21, ne abbiamo parlato ampiamente nella prima parte. Ma adesso volevo parlare con l'onorevole Francesco Paolo Sisto di Forza Italia, eccoci di nuovo. Buonasera. Onorevole, buonasera. condivide, presidente tra l'altro della Commissione Affari Costituzionali della Camera, ha sentito sì. quanto diceva prima il professor Dalimonte, la battuta di D'Alema, è d'accordo su queste osservazioni? Sì. Guardi, innanzitutto ripeto, ascoltare il maestro Dalimonte per me è un piacere, abbiamo lavorato insieme sul Solitalicum, ne ho apprezzato le doti di sagacia, di pragmatismo e di scienziato, quindi mi fa piacere prendere tra virgolette il suo posto in questa trasmissione e ne sono onorato. Sono contenta che vi siate trovati. Sì. Sì, sì, il problema è molto più semplice. Non credo che, come dice il presidente D'Alema, che fa dell'ironia e qualche volta del sarcasmo un modo di comunicare, Berlusconi abbia scelto Renzi come suo erede. Questo è un paradosso che lascio con grande piacere al presidente D'Alema, tra l'altro, come sempre, molto pungente. Verità è che noi siamo disponibili ad un percorso sempre critico ma collaborativo sulle riforme, ma sulla politica notoriamente diciamo la nostra, diciamo per dirla con Seneca, et de meo aliquid vindico, abbiamo le nostre idee che sono completamente diverse, la legge di stabilità ne costituisce un banco di prova esemplare, idee completamente diverse dallo spread che caratterizza la differenza tra quello che Renzi dice e quello che fa. Onorevole Sisto, però prego. Mi scusi se interrompo, ma prima si diceva che Berlusconi sarebbe favorevole, cioè adesso la posta in gioco maggiore in questo momento più urgente sulla quale fa pressione Renzi è quella della riforma elettorale, no? Aveva dato l'ultimatum a Berlusconi per questa sera, domani c'è l'ufficio di presidenza. Sì. Ecco. Anche questo fa riflettere, cioè le priorità di Renzi non sono le priorità del paese e questa logica da Sun Tzu, da tattica bellica di crearsi un diversivo con dei nemici ogni volta, che non sono gli obiettivi principali del paese. Il paese ha bisogno certo di una legge elettorale, ma forse ha più bisogno di lavoro, di una rilettura dei problemi economici, di abbattere le tasse, cioè di dare sollievo alle imprese, che mi sembrano temi leggermente più rilevanti delle elucubrazioni, qualche volta diciamo un po' agonistiche, sulla legge elettorale. Il patto del Nazareno non è fatto certo per essere forzato, quindi, ma perché tutte le modifiche siano condivise. Io dico che sul premio di coalizione si può dire di tutto, certo il premio di lì, il premio che sconvolge l'Italicum, su questo non c'è dubbio, e obbliga poi a... Io che sono magari rispetto al professor Dalimonte dell'Italia, avendolo licenziato in Commissione Affari Costituzionali, le dico che il premio di lista è un elemento innovativo, ma in qualche modo sconvolgente la filosofia dell'Italicum. Ecco perché, insomma, quindi Berlusconi molto lealmente ha convocato un ufficio di presidenza perché il partito possa discutere di questo. Quindi mi sembra che prima di presidenza ogni pronostico è... Ha ragione. E quindi allora ci aggiorniamo domani, se è possibile. Io la ringrazio intanto, onorevole Francesco Paolo Sisto. Grazie e buon lavoro allora. Buon ufficio di presidenza. Grazie, buona serata. Europa 24 notte. Parliamo adesso di Europa. Esulta il presidente della Generalitat della Catalogna, Artur Mas, per la consultazione popolare che ha visto l'80% e più dei votanti esprimersi per l'indipendenza della Catalogna dal resto della Spagna. In tutto sono stati 2 milioni i catalani che si sono messi in fila ieri per partecipare a un referendum dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale Spagnola e che di fatto ha solo un valore simbolico e politico, dunque senza conseguenze concrete. Non è il ruolo della Commissione quello di esprimere un'opinione su questioni di organizzazione interna dei nostri stati membri, ha dichiarato la portavoce dell'esecutivo dell'Unione Europea Margarita Schinas, ma intanto ci si interroga su cosa potrebbe succedere se la Catalogna diventasse davvero uno stato indipendente, quali sarebbero i suoi rapporti con Bruxelles, quali le conseguenze economiche. Alessandra Schepisi l'ho chiesto a Antonio Villafranca, responsabile dell'Osservatorio Europeo dell'ISPI. Nel momento in cui la Catalogna diventasse un paese indipendente non sarebbe un paese che aderisce all'Unione Europea e la sua banca centrale non avrebbe immediato contatto e la possibilità anche di ricevere liquidità dalla banca centrale europea. Dovrebbe peraltro la Catalogna prendersi una parte del debito pubblico spagnolo sulla base di quella che è anche il suo peso demografico, e ricordiamo che la Catalogna è sicuramente una economia importante, rappresenta circa il 20% dell'economia spagnola, ma ha anche un indebitamento molto alto, tanto è vero che negli ultimi 2 anni per due volte è stata salvata dal fallimento praticamente la Catalogna dal governo centrale. A tutto ciò ovviamente si aggiungerebbe un effetto ad esempio di spostamento di attività produttive verso altre regioni spagnole, perché è evidente che gli imprenditori in una situazione del genere preferirebbero appunto stare in un contesto pienamente europeo, che sarebbe poi il contesto dell'intera Spagna. Quindi in realtà, sommando tutto, l'effetto che si avrebbe da un punto di vista strettamente economico, perché il dibattito rispetto a 10 anni fa non è più e soltanto su questioni storico-culturali, ma sul piano economico, ecco, la Catalogna si avvierebbe verso un percorso di recessione profonda per alcuni anni prima di poter tornare a crescere. Poi in realtà, se la Catalogna fosse indipendente, dovrebbe, come dire, sarebbe fuori dai trattati istitutivi dell'Unione Europea, dovrebbe ripartire da zero, dovrebbe rinegoziare, dovrebbe sì, come seguire le... l'altro aspetto, sì. Un aspetto su cui si è molto discusso anche nel caso della Scozia, e su questo l'Unione Europea era stata chiara, la all'Unione Europea e da parte della Spagna, come lo è stato ovviamente per la Gran Bretagna. Questo significherebbe che la Catalogna dovrebbe chiedere l'adesione all'Unione Europea. Peraltro non dimentichiamo che per aderire all'Unione Europea è necessaria l'unanimità degli Stati membri, il che vuol dire che il governo di Madrid dovrebbe votare a favore di un'eventuale adesione della Catalogna. Oltre all'aspetto strettamente monetario, quale sarebbe la moneta della Catalogna, fino a che punto il governo di Madrid sarebbe poi disposto a permettere ad esempio la circolazione dell'euro all'interno della Catalogna, o appunto fino a che punto sarebbe credibile appunto una moneta catalana. Sono tutte delle questioni irrisolte, ma da qualsiasi punto effettivamente la questione venga poi vista, non si può che immaginare appunto un forte effetto recessivo sull'economia catalana. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus.